Europa 24. In primo piano la crisi ucraina, al centro del Consiglio Esteri a Lussemburgo. C'è crescente preoccupazione per ciò che la Russia sta facendo, dice Catherine Ashton. La rappresentante per la politica estera europea ha lanciato un appello alla calma rivolto a tutti. L'obiettivo è far scendere la tensione a Ginevra nella riunione a 4 USA, UE, Ucraina, Russia prevista per mercoledì. I ministri degli esteri dei 28 paesi dell'Unione devono decidere oggi come rispondere alla lettera inviata loro dal presidente russo e con la quale Vladimir Putin ha minacciato interruzioni nelle forniture di gas all'Europa. Sullo sfondo c'è sempre la crisi ucraina. Gli ultimi scontri nella parte orientale del paese fanno temere un intervento russo con eventualmente l'annessione di questa regione alla Russia, sulla scia di quanto è avvenuto per la Crimea. Qui in Lussemburgo, dove si stanno riunendo i ministri degli esteri europei, è evidente il nervosismo. La Gran Bretagna insiste per nuove sanzioni contro Mosca, questa volta economiche, mentre l'Italia, per bocca del suo ministro degli esteri, Federica Mogherini, cerca di gettare acqua sul fuoco, molto preoccupata da una nuova escalation. In precedenza, i paesi dell'est Europa erano tra i paesi più critici della Russia. Oggi sembrano preoccuparsi dell'impatto che sanzioni economiche avrebbero sulla loro economia nazionale. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. Esiste il rischio che gli euroscettici crescano, ma sicuramente non fermeranno la costruzione e l'integrazione dell'Europa. Ne è convinto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un'intervista su Rai 3. Il Capo dello Stato ci tiene a specificare che l'Europa non è solo austerity, ma pace e libertà. Poi ha aggiunto, però capisco la delusione. Allora sentiamo le parole di Napolitano. La delusione motivata da fatti recenti o relativamente recenti, cioè la incapacità della Unione Europea di dare una risposta soddisfacente alla crisi mondiale che è scoppiata nel 2008, anche perché ci si era abituati all'idea che l'Europa significasse star meglio ogni volta rispetto all'anno precedente. Quindi per questo c'è delusione, perché invece di fronte a una crisi di cui non c'erano precedenti nel mondo da molti decenni, l'Unione Europea ha reagito tardi, ha reagito tra molte difficoltà e in modo anche discutibile. Per tutelare i diritti dei consumatori nel quadro di un'azione concertata dalle autorità nazionali e coordinata dalla Commissione europea, nel 2013 sono stati controllati oltre 500 siti web di viaggi. Di questi ben 382 non rispettano il diritto europeo in tema di tutela dei consumatori. Fra gli utenti di internet nell'Unione europea, uno su tre prenota i suoi viaggi e i suoi soggiorni online. Occorre fare sì che tali prenotazioni siano sicure ed affidabili, ha commentato Neven Mimic, commissario europeo per la politica dei consumatori. L'astronauta Luca Parmitano sarà ambasciatore del semestre della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea. Lo fa sapere il commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, Aldo Sandulli. È il riconoscimento, ha osservato Sandulli, del ruolo centrale delle attività spaziali nel campo della politica europea. Per Sandulli, Parmitano è la sintesi più completa di quello che l'Europa rappresenta. Come astronauta italiano appartenente al corpo degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, Parmitano è la punta di diamante delle grandi capacità che il nostro paese sa mettere in campo in condivisione integrata in ambito europeo. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.